568. Biscotti croccanti prima maniera. Farina grammi 500, zucchero in polvere grammi 220, mandorle dolci intere sbucciate frammiste a qualche pinolo grammi 120, burro grammi 30, anaci un pizzico, uova numero 5, sale una presa. Lasciate indietro le mandorle e i pinoli per aggiungerli dopo ed intridete il tutto con 4 uova, essendo così sempre in tempo di servirvi del quinto, se occorre, per formare una pasta alquanto morbida. Fatene 4 pani della grossezza di un dito e larghi quanto una mano. Collocateli in una teglia unta col burro e infarinata e dorateli sopra. Non cuoceteli tanto per poterli tagliare a fette, il che verrà meglio fatto il giorno appresso, che la corteccia rammollisce. Rimettete le fette al forno per tostarle appena dalle 2 parti, ed eccovi i biscotti croccanti.